headlights are on. Eccoci qua dunque alle 21.07, inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi, mercoledì 19 giugno del 2019, uno spazio improntato su sonorità industrial ambient noise, uno spazio che andrà avanti sino alle 22.30 circa. 0649 1750 al contatto telefonico, sito internet www.ondarossa.info anche per ascoltarci attraverso lo streaming. Ricordo ovviamente la necessità di finanziare questa radio dal 1977 completamente autogestita e che va avanti con la sottoscrizione anche di chi la ascolta. Quindi 6180 4001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Vere Voci 56 00185, Roma. Salutiamo Maya dalla Sardegna, Antonio Zoviet da Firenze, Like Awake qui da Roma, Nicola Locci dalla Sardegna, il buon Sisto Palombella. Da Milano Massimo Oders Mascheroni, ricordiamo Oders Palente, progetto industrial. E quindi si va subito ad iniziare, lo abbiamo nominato e salutato, il buon Sisto Palombella, valente maestro di fisarmonica e sintaccordion, e di lui abbiamo rispolverato questo lavoro, credo del 2018, dal nome Small Pieces of Accordion of a Broken Table, dove si possono benissimo apprezzare le strumentazioni testé nominate. E quindi lo facciamo attraverso questa bellissima traccia dal nome Il Condor, e salutiamo Sisto Palombella. La genialità di questo vero e proprio uomo orchestra si chiama Sisto Palombella. E questa traccia era Condor, estratta da Small Pieces of Accordion on a Broken Table. Un grande brano composto utilizzando il synth accordion, per l'appunto la fisarmonica acustica a bassi sciolti, come ci dice il buon Sisto, fischio voce e un accenno di tastiera. Una vaga influenza jazz. E sappiamo anche delle sue collaborazioni con progetti etnici, insomma un musicista a 360 gradi, del quale consiglio di visitare caldamente il sito Bandcamp, dove si possono trovare numerosissimi lavori di questo artista pugliese, credo trapiantato nel Mantovano e dintorni. Un grosso abbraccio a Sisto Palombella, del quale anche la prossima settimana ci andremo ad ascoltare un paio di tracce sempre da questo medesimo lavoro. Chiamiamo in causa Raffaele Pezzella e lo facciamo tramite la sua compilation Decay, Death and Darkness, che esce per la 8 Tower Records, entità parallela alla Nesplay Sounds, più nota. Ma la 8 Tower Records si diletta nel andare a cercare e a scovare sonorità sicuramente più ambient ed oscure rispetto alla Nesplay Sounds Group e label. Nello specifico, questa compilation ha un nome completo, anche Aural Visions of Basinski. Basinski era un artista multimediale polacco al quale appunto è dedicata l'intera compilation. Questa sera ci ascoltiamo inizialmente Nihil Impulse con questa sonata For Vermins. Thank you. Chiamiamo a causa anche il nostro amico Niccolò Locci, ricordo che ci sta ascoltando dalla Sardegna, attraverso il suo progetto Stigmate che abbiamo apprezzato qualche tempo fa. Eccola qua, Processing on a Man All Morning. Stigmate. Un saluto a Isa Etoile e al nostro Jean-Claude Oberto, oggi in trasferta a Torino. questi loop stratificati di sigmate, queste frequenze, questi scenari disturbati. Ascoltati attraverso Processing of the Morning, Stigmate, Nicola Locci che salutiamo. Il tutto estratto da From Decay, Death and Darkness, Aural Visions of Besinski, una compilation ideata da Raffaele Pezzella, ormai personaggio strafamoso qui nelle nostre selezioni di prove tecniche di trasmissione. Una buonasera anche al Fulvio Biondo di Solar Lodge, un caldo abbraccio a lui. Qualcuno si ricorderà, perché l'abbiamo anche analizzata in passato, la Galat Corro, un'etichetta tedesca fondata da Aus Arafna e che ha sfornato diversi artisti che hanno il pregio e per qualcuno anche il difetto di somigliare parecchio proprio ai fondatori dell'etichetta stessa. È il caso per esempio di questo Herz Juning, il vero nome è Kai Juning, anche lui teutonico, che dopo 9 anni finalmente tira fuori un nuovo lavoro uscito sul finire dell'anno scorso dal nome Samsara. Quindi inquietissima minimal dark wave e pulsioni industriali vanno a caratterizzare questo secondo lavoro di Herz Juning. Lo cominciamo a conoscere attraverso Kreislauf e Blood Will Boil. salutiamo anche un'altra vecchia conoscenza telefonica, il buon Gabriele, con il quale stiamo parlando di Art Decore ma anche di Giardino Violetto, per citare progetti molto cari qui alla radio. Tornando a Hertz Uning, una ottima conferma, questo Samsara è uscito l'anno scorso, sul finire del 2018. Inquieta Electro Industrial di scuola Galat Corro, a tratti più cupa, in alcuni frangenti invece come questo, mi ha ricordato House Rafta, in altri November Novelet, giusto per citare due progetti leggermente più noti di questa etichetta. Due lavori, consiglio anche il primo, Miasma, del 2009. Un grosso saluto a Lupsi e Lucia Cagliazza, che ci delizia anche con i suoi giochi a base di GIF, ai quali noi non sappiamo resistere e spesso la seguiamo anche. Anche io che sto qui un po' impicciato, ogni tanto mi perdo nel giocare con i GIF. Torniamo in Italia, lo facciamo con Iena. Iena proviene da Milano nella persona di Giona Vinti. E ci andiamo ad ascoltare questo Fence di qualche tempo fa, esattamente del 2018. Un progetto che si muove agevolmente tra il Death Ambient di scuola Atrax Morgue ed altre frecce invece scagliate verso l'industrial noise. Questa sera, eccolo qua dunque, Destroy the Sinusoidal Matrix, Iena. Il buon Giovinti riesce a tessere trame alquanto spigolose. Vere e proprie rasoiate, un po' a metà appunto con la tradizione più affine da un lato a Atrax Morg, dall'altro, come giustamente ci dice Antonio, per esempio Corpo Parassite e Cranium, altri pezzi di storia della scena Death Ambient. L'album si chiamava Fanes del 2018 e anche qui consiglio caldamente il profilo Bandcamp di questo artista di Milano. Intanto questa è Prove Tecniche di trasmissione, che è tornata dopo una settimana di vacanza. Uno spazio che andrà avanti sino alle 22:30 circa. Ricordo il sito internet, che è www.ondarossa.info, anche per lo streaming e per leggere le notizie contenute nel sito stesso. Altro calibro di eccellenza è Nordvarger, lui viene dalla Svezia. Una mole di lavori impressionante, compreso questo Tantum Melior, forse non al massimo della sua creatività, ma comunque una serie di remix abbastanza interessanti di vari personaggi, vari in tutti i sensi, veramente variegati. Questa sera ci ascoltiamo Sweet Death Triumphant di Christopher Haustadt e poi Manifestations di Michael Ideal, un artista che gravitava intorno alla Ant Zen. Il tutto da Tantum Melior.